affrodato e asciugava il pianto mendicava per me. Io, chi sei? E perché tanta angoscia hai diviso?

notte senza lumicino. Cora nera, un cammino sol più chiare delle nibili tolendo. Ferro bronzo, muro roccia, bustina, tacco, capoccia, sol migliori delle nibili tolendo. Dunque va saluta tutti, barca i monti dagli flutti, alla larga dagli nibili tolendo. Oh! non piangere più, sei un lontano giorno, io t'ho sorriso, per quel sorriso.

e stiam qui, stiam qui, stiam qui, a stillarci il cervello sui libri sacri. Alla cina la pace ridà, Santo scettro ti ostringe.

Con la Piantala.

Scala, Alla tortura, sempre morto, alla tortura.

dolcezza. Good. 天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Thank you.